pretty. Arte contemporanea. Oggi abbiamo l'onore di avere con noi Concetta Modica, un'artista siciliana che vive e lavora a Milano, la cui poetica potrebbe essere riassunta con il concetto di epico contemporaneo, un dialogo teso tra presente e passato, in cui la componente affettiva riveste comunque un ruolo importante. Ci siamo interessati soprattutto a un libro d'artista, In pasto al presente, che è molto, diciamo, un'opera corale che ci permette di andare anche a capire meglio quali sono le vite degli artisti. Concetta, ti ho presentato bene, manca qualche cosa? Sì, Chiara, mi ha presentato bene. Saluto chi ascolta, saluto te ovviamente e Stefano W. Pasquini, e grazie per questo interesse, per queste domande. Fa sempre piacere quando qualcuno chiede a un artista del proprio lavoro. In pasto al presente, sì, è un libro d'artista, come l'hai definito, e lo considero anche un po' una sorta di scultura composta da tanti elementi legati tra loro. Ho chiesto a tutta una serie di artisti che mi sono vicini, che stimo, che conosco e di cui volevo in qualche modo conoscere il loro percorso. È un libro fatto di domande molto intime che riguardano la vita personale, non la vita artistica. E poi appunto li ho registrati, li ho ascoltati, li ho messi tutti insieme. Ho tolto tutta la punteggiatura andando solo a capo per dare il senso del racconto, dell'oralità di questo progetto, e ho tolto anche i nomi che ho messo tutti in coda alla fine. E forse in questo libro il concetto di epico contemporaneo di cui parlavi prima è molto presente, nel senso che per me epico oggi vuol dire proprio questo. È un concetto che non è legato agli eroi, perché gli eroi non esistono più, ma mi interessa questo collegamento nel gruppo, cioè questa partecipazione, l'idea che tutti gli artisti sono in qualche modo collegati tra di loro. Non mi piace l'idea dell'eroe singolo, solitario, del personaggio solitario che lavora, ma di un insieme di relazioni che rendono le vite di tutti un po' simili e anche epiche, perché sono davvero, in certi casi mi sento davvero anacronistica, non si capisce bene cosa facciamo, dove andiamo a parare, quali sono i desideri, che poi sono comunque un po' simili per tutti e un po' ci uniscono, ci danno un orizzonte comune, e quell'orizzonte comune mi interessa molto. E infatti è un racconto corale di 27 autori, dei quali Concetta scrive affiora una voce unica, l'Epifania e la Sinfonia dell'Arte, espressione d'insieme di un tempo preciso e senza data, come in un quadro di De Chirico in cui sai sempre che ore sono ma non c'è il tempo, è tutto sospeso in un attimo interminabile. E è anche un modo per giocare con le storie degli artisti, perché per come Concetta ha costruito il racconto si può collegare le varie storie, che sono presentate appunto come un enorme flusso di coscienza senza interruzioni, ai vari nomi dei narratori che sono presenti solamente alla fine. Ma c'è una domanda iniziale che ha fatto da filo conduttore alle tue interviste. Sì, la prima domanda che ho fatto a tutti è sull'inizio, su come si è capito che si voleva diventare artisti, si voleva perseguire quella strada, oppure qual è stata la prima opera in cui ognuno ha deciso: parto da qui, e questa è la prima opera che considero tale. E secondo me per tutti è un momento decisivo, è un momento interessante. Infatti poi ogni tot di pagine, quando cambia l'artista, c'è di nuovo un inizio, cioè si parla di nuovo di un inizio, e quindi è una sorta di lettura ciclica in cui a un certo punto rileggiamo l'inizio di un altro, e poi le altre domande, e poi di nuovo si ricomincia. E questa cosa ciclica mi piace molto, questo appunto il tempo ciclico che ritorna, che anche quello è un concetto epico. È in effetti una storia dell'arte raccontata dagli artisti, incontrati non più sui libri o nelle gallerie, ma sentita proprio dalla loro voce. A noi di Coxo è piaciuta sia come lettori che come artisti, ci siamo identificati e raccomandiamo molto questa lettura. C'è anche da dire che questo è stato un modo per te per reagire a un momento, cioè se ricordo bene è stato il tuo modo di anche di superare un ostacolo o quello che dici tu, una sorta di delusione. Se vuoi raccontarci qualcosa di più, in ogni caso per noi è importante anche far capire che si arriva all'opera da una serie di condizioni materiali alle quali decidiamo di reagire in un certo modo. Sì, dici bene Chiara, è nato da una delusione, anche se con gli occhi di oggi, non credendo più nel riconoscimento dall'esterno e quindi avendo tagliato via un po' di aspettative che uno si fa, che magari te le fai quando sei più giovane, man mano che si lavora, credo che si ascolti solo la necessità che parte da te per continuare a fare, al di là di quello che succederà, al di là, cioè senza alcuna aspettativa nei confronti dell'esterno. E credo che quando incontro artisti che lavorano così trovo più autenticità e quindi anch'io anelo a quella autenticità che poi traspare nel lavoro, traspare nelle relazioni, traspare anche nel piacere sia del lavoro che delle relazioni e che ovviamente, come si dice, respinge le frustrazioni. Bellissima questa cosa che hai detto, non potrei essere più d'accordo e quindi a maggior ragione consigliamo di leggere questa incredibile storia dell'arte attraverso la voce di Stefano Arienti, Marion Baruch, Stefano Boccalini, Anna Valeria Borsari, Vincenzo Cabiati, Marco Cingolani, Ermanno Cristini, Enzo Cucchi, li leggo tutti quindi mettetevi a sedere, Mario Della Vedova, Gabriele Di Matteo, Alberto Garutti, Marco Gastini, Emilio Isgrò, Francesco Lauretta, Corrado Levi, Luigi Mainolfi, Giuseppe Maraniello, Amedeo Martegani, Cioco Miura, Giulio Paolini, Luca Pancrazzi, Alessandra Spranzi, Alessandra Tortarolo, Franco Vaccari, Grazia Varisco, Vedova Mazzei, Gilberto Zorio. Sono arrivata alla fine della lista e devo dire che in qualche senso mi ricorda un po' un altro libro che non è italiano e che potremmo suggerire di leggere per saperne di più sull'arte e sugli artisti, che è 33 artisti in tre atti di Sarah Thornton. Ma questo è un libro concettualmente più corretto, perché è allo stesso tempo proprio un'opera, quindi è un'opera che racconta l'arte. È molto coerente dal punto di vista concettuale e tu, che ti chiami Concetta, con il discorso del concettuale giochi spesso e volentieri. Mi piaceva ricordare quest'altro tuo lavoro, non so se ti trova ancora, I concettini di Modica. Che cosa sono i concettini di Modica? Grazie Chiara per queste parole. Dunque, per arrivare ai concettini, volevo ribadire appunto, ti stavo dicendo che io penso che sia davvero importante che alla base del lavoro ci sia il piacere, il godimento, il piacere di continuare un discorso che si è iniziato e che quindi con gioia portarlo avanti. Ecco, e dal libro, così scherzando con l'editore, che è Amedeo Martegani, APM Bookstore, così chiacchierando con lui, dicevamo, sarebbe bello fare tipo una sorta dei cioccolatini con delle frasi degli artisti estrapolate dal libro che appunto ridotte in piccole frasi diventavano evocative, insomma un po' come i Baci per Regina che hanno le frasi d'amore dentro. E quindi abbiamo fatto questi concettini di Modica, partendo così scherzando sul mio nome con cui comincio a fare pace solo adesso, e quindi abbiamo inserito alcune frasi per ogni artista e abbiamo fatto una serie di cioccolatini che sono stati prodotti a Modica e poi distribuiti in diverse occasioni, speriamo di farlo ancora. È l'unico posto dove poi dove sotto la frase c'è il nome dell'artista, per cui si svela quello che nel libro non è svelato, con il cioccolatino viene svelato. Direi che il piacere di fare in questo caso coincide assolutamente con il piacere di avvicinare l'opera e gustarla, perché i concettini di Modica io li ho assaggiati, ho avuto questo onore e sono veramente buonissimi, quindi se volete procurarvene una scatola sperando che non siano esauriti, sbrigatevi e andate su www.artecontemporanea.com, che è il sito di APUM Bookstore, dove potete trovare anche In pasto al presente, e se volete saperne di più sull'opera di Concetta, sicuramente merita di essere approfondita, vi segnaliamo il suo sito web www.concettamodica.com. Concetta, noi ti salutiamo, ti ringraziamo e speriamo di poterti avere prima o poi in studio con noi. Grazie davvero Chiara e grazie Stefano, e anch'io spero di venirvi a trovare in studio presto. Grazie e buona serata a tutti e tutte. Sono Francesca Pasini e state ascoltando Coxo Spaziale. Ciao Stefano. Ciao Fedra. Coxo Spaziale. You were cordially invited to do something. You were cordially invited to overcome. You were cordially invited to act in this moment. We're standing here united and feeling. You gon' hear us. Speak good, time is now. Speak good, we the future. Speak good, time is now. Speak good, we the future. Hear ye, come let me borrow your ear, but don't come near me. Hear ye, come let me borrow your ear. Check, check, check, check in. Check on your people protesting. Check on them people still sleeping. Yeah, they say they woke, so why they resting? We ain't selling hope, we don't believe in. We can't lead them, then we fail them. Holla, check, check, check, check in. Yo, my only concern is the movement. We ain't got time to try. We gon' make time to thrive. One of the biggest moments in your life. Don't let it pass you by. You were cordially invited to do something. Do something. You were cordially invited to overcome. And yeah, we overcoming. You were cordially invited. Thrive. One of the biggest moments in your life. Don't let it pass you by. You were cordially invited to do something. Do something. You were cordially invited to overcome. Yeah, we overcoming. You were cordially invited. We're standing here united. You were cordially invited to feel. Questa era Standing Here United, in cui Tamara Bubble, che ringraziamo per averci spedito direttamente il suo singolo, come si dice, indirizza il suo supporto per il movimento Black Lives Matter. Intanto continuano le residenze a Nelumbo, questo spazio gestito da artisti che appunto sta facendo questo ciclo di residenze chiamate Rifugio, di cui abbiamo parlato nelle puntate scorse, e ascoltiamo la terza artista che ci racconta appunto la sua idea di rifugio, Sara Lorusso, che è una fotografa. Trovarmi a lavorare in uno spazio nuovo è sempre molto, molto forte per me. Ho iniziato diciamo la mia ricerca artistica all'interno delle mura di casa mia, in particolare la mia stanza dove creavo, pensavo, immaginavo, per poi spostarmi anche al di fuori però ho continuato a mantenere questa realtà molto, molto intima, molto personale all'interno del mio lavoro, che fosse nel mio studio piuttosto che nella mia camera, piuttosto che una casa in generale. E quando mi trovo comunque a lavorare in uno spazio nuovo, è un impatto sempre molto, molto forte, molto, molto particolare. Però allo stesso tempo, quando sono entrata in Nelumbo per la prima volta, c'è stato una sorta di impatto positivo, e ho iniziato a guardare le varie stanze, quindi il bagno, la sala principale, il giardino, e capire subito come io mi potessi rapportare con quel luogo e con quello spazio. Mi era stato presentato comunque il lavoro come raccontare il rifugio che io ho visto subito in maniera diciamo negativa, in quanto eravamo appena usciti da, cioè siamo ancora in questa situazione particolare dovuta appunto al Covid, quindi la quarantena forzata, quindi l'ho immaginato come un rientrare in una sorta di rifugio obbligato, perché al di fuori non c'è possibilità di uscita, e quindi nuovamente trovarmi a rapportarmi esclusivamente con me stessa e con la mia persona. Quindi tutte le difficoltà che molte persone hanno incontrato nel ritrovarsi da soli con se stessi, e quindi l'idea che il rifugio diventi poi una prigione in cui è arrivato il momento di analizzarsi, di capirsi e di cercare di trovare una pace interiore, ecco. Grazie Sara. Il quarto artista è un artista cinese, si chiama Chen Xue ed è un pittore, sentiamolo. Mi chiamo Chen e sono nato in Cina. Ho studiato pittura all'università in Cina e poi sono venuto a Bologna per frequentare l'Accademia di Belle Arti, dove mi sono laureato nel 2019. La mia arte è la mia passione. Non mi reputo un artista. Dipingere è la manifestazione della mia libertà. Sono convinto che la natura è più potente dell'uomo. Quindi la mia ricerca artistica segue questa direzione. Dipingo ciò che attira la mia attenzione. A volte, guardando la luna a testa in su, mi rendo conto che sono l'unico a farlo. E quindi penso, allora la luna è mia. La luna è tua. E certo, Chen, è fantastico, mi sono piaciute tantissimo le tue parole e ti ringrazio. Ringrazio naturalmente anche Guendalina Piselli, che si è occupata di raccogliere tutte le vostre testimonianze, e naturalmente aspettiamo gli ultimi artisti nella prossima o nelle prossime puntate di Coxo Spaziale. Per un ulteriore approfondimento naturalmente potete andare su www.nelumbo.it. Are you alright? Are you okay? Did a broken heart turn you this way? Do you recall the very day that hope walked out on you? Or have you got a harbor thought that I am trying to wrong you? 'Cause you're so vicious, I've never seen anybody be so cruel. You don't get to talk to anyone the way you do. Are you undone? Are you upset? Or were you born unhappy with all you get? Do your bitter tears ever let you act the way you want to? Or are my hopes and dreams and jokes simply wasted on you? 'Cause you're so vicious, I've never seen anybody be so cruel. You don't get to talk to anyone the way you do. Maybe you didn't mean to break Ciao, siamo le Linkingers e questo è Coxo Spaziale. Coxo Spaziale! Hai sentito, Stefano, che bella intervista che ti ho preparato per questa puntata? E poi spero che tu abbia notato la voce di Concetta Modica, che mi ricorda un po' quella di un'altra nostra amica, ospite frequente, che è Ivana Spinelli. Ma tu pensa che bello che sarebbe avere in studio Concetta Modica e Ivana Spinelli contemporaneamente. Poi noi stiamo zitti, quella puntata lì. Ottimo. Allora, una volta che ci permetteranno di tornare in studio con ospiti, si farà la puntata Ivana Spinelli e Concetta Modica. Concetta Modica intervista Ivana Spinelli, Ivana Spinelli intervista Concetta Modica. Salute. E io e te stiamo zitti. Hi John, I called you to leave you a message and tell you about MailArt. Για μένα η MailArt είναι η επικοινωνία με ένα δίκτυο ελεύθερων καλλιτεχνών από τα δεσμά του χρηματιστηρίου της τέχνης μέσω της τέχνης. Mail art είναι ο ρομαντισμός του συναισθήματος της αναμονής μιας ταχυδρομικής κάρτας με μια καινούργια σκέψη ενός καλλιτέχνη από την άλλη μεριά της γης που του ξημερώνει μια άλλη μέρα με έναν άλλο καιρό σε ένα άλλο κατεστημένο. Η επικοινωνία μέσω της τέχνης που στείνει φιλίες με σπουδαίους ανθρώπους που σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο. Αυτό είναι η mail art για μένα, John. In girum imus nocte et consumimur igni. In italiano andiamo in giro di notte e ci consumiamo nel fuoco. È un indovinello palindromo di un anonimo medievale ripreso da Guy Debord per descrivere metaforicamente la società dei consumi in cui siamo immersi oggi, in una forma esasperata e sempre più legata all'immagine. Andiamo in giro di notte, ci consumiamo nel fuoco, è anche il titolo del quarto album degli Homunculus Res, l'originale formazione palermitana che si è ritagliata uno spazio più unico che raro nel panorama internazionale progressive. Andiamo in giro di notte, ci consumiamo nel fuoco, primo album del gruppo per AMS Records, è più essenziale e diretto che in precedenza. In tutti i brani ci sono riferimenti più o meno espliciti a fuoco, luce, calore, elettricità, nonché numerose metafore, messaggi subliminali, presenze mistiche e oscure. Naturalmente su www.coxospaziale.blogspot.com troverete il link per appunto ascoltare questo nuovo album degli Homunculus Res, e ringraziamo come al solito Francesca Crispello che ce li ha indicati, e ascoltiamoci la Luccicanza. Lo sai, ce l'hai. così, così, vedere a cos'è del passato e del futuro, averlo chi violato lo conosciamo. Questo appunto era La luccicanza dal nuovo disco degli Homunculus Res. E a proposito di luccicanza, dovete sapere che qui a Bologna, in maniera un po' misteriosa, un po' nascosta, esiste una serie di eventi, mostre, come li chiamiamo non lo so, appunto chiamati luccicanza, che stanno succedendo a Locale 2, a cura di Gabriele Tosi e di Filippo Tappi. Filippo Tappi, fra l'altro, è uno dei 12 del Mambo, per cui ci sono i intrighi di palazzo dovunque. E le abbiamo su WhatsApp. Raccontatemi che cos'è questa luccicanza e cosa sono queste mostre notturne di cui non si capisce nulla. Ciao Stefano, grazie per l'invito e per l'attenzione. In attesa per un progetto come il nostro, che si è sviluppato, nato, sviluppato e portato avanti con il favore del buio. Guarda, che dire, l'incomprensione di cui parli è perché luccicanza non è una mostra, non è una programmazione, ma è una cosa molto più semplice. È una serie di opere e situazioni afferenti all'ambito dell'arte visiva che ci sono quando e come non dovrebbero, perché lo spazio di Locale 2 è chiuso, perché le sue luci non sono state ancora riaccese, ed è richiesta, non è che è richiesta, succede che l'opera e i pochi testimoni di essa vivono una condizione notturna, per certi versi falsa, per altri certi molto più vera di quella a cui siamo abituati, e in questa furtività reciproca forse costruiscono dei significati visivi o dei canali percettivi diversi dal solito. Due cuscini che hanno abitato Locale 2 come se lo spazio fosse il loro matrimoniale. Due cuscini all'apparenza normalissimi da grande distribuzione, però poi a guardarli ti accorgevi che si muovevano, in particolar modo sembravano respirare. e a guardarli ancora un po' ti accorgevi che si muovevano in simultanea. Ecco, in questa condizione hanno respirato, dormito sostanzialmente per tutta la notte nello spazio, rivelando così una natura in qualche modo tecnologica, se non magica, dissimulata certamente nella prima apparenza dell'oggetto, che è quella di un ready-made. Un'altra opera che mi piace oggi raccontarti, ed è un buco nel muro da cui per qualche ora sono uscite delle bolle di sapone, come una sorta di sbavo scultoreo dell'architettura. Qui, al contrario dei cuscini, l'apparenza era quasi meccanica, perché la regolarità di questo flusso di bolle faceva pensare quasi a una macchina. E al contrario che dei cuscini, l'esperienza di una visione prolungata, pur nella notte, suggeriva che ci fosse un esecutore magari vivo e performativo dietro a tutto questo, anche se celato. Poi l'idea del celato è apparsa anche in altri lavori, penso a una tela catarinfrangente, nel senso che viveva solo di luce riflessa, ma questa luce aumentava quando non veniva guardata frontalmente. Penso a una pittura che ha i connotati di un quadro dei giorni nostri, cioè molto semplice, con i colori molto accesi, blu, bianco, rosso, saturo, da web, che da cui però emerge una presenza inattesa, che è un'ombra che in qualche modo aggredisce la sagoma in primo piano, andando a cercare il suo fallo eretto. E da questa pittura tutta viene proiettata, con un meccanismo anche in questo caso celato, l'immagine di un pompino sul muro riverso. Ecco, devo dire che effettivamente mi devo scusare con Fabio Farnè, perché anche lui è uno dei tre curatori di questo progetto. Infatti sentiamolo che ce lo descrive nelle sue parole brillanti. Luccicanza è un progetto di Locale 2 a cura di Fabio Farnè, Filippo Tappi e Gabriele Tosi. Per seguirlo potete visitare Locale 2 sul suo profilo Instagram, in cui le apparizioni vengono mostrate attraverso il lavoro fotografico di Bianca Sofia Schröder. Da Instagram, tramite messaggio privato, si può richiedere un link al gruppo Telegram. Qui sono annunciate, la mattina per la sera, le notti in cui assistere a Luccicanza in prima persona. Dulcis in fundo sentiamo anche Filippo Tappi che appunto ci racconta il concept di tutto questo evento, come lo chiamiamo, evento. Luccicanza è un mondo falso, è un luogo secondario. Locale 2 rimane chiuso, le sue luci sempre spente, disattivato come spazio e come attore, è innescato per incursione. Le opere e le azioni, che stando così le cose non dovrebbero esserci, appaiono in alcune notti per scomparire dopo un tempo imprecisato, comunque prima che sorga il sole. Nello spazio di Via Zogardino a Bologna, gli avvistamenti, comunicabili per loro natura soltanto con annunci dell'ultimo minuto, descrivono a posteriori una non programmazione, condizionata dal buio e dall'adunanza di pochi intimi. È una grammatica d'estraneità dedicata a ciò che non è all'ordine del giorno. E dunque devo dire che questo buio, questi pochi intimi, il gruppo segreto di Telegram, cioè tutto questo in realtà ci fa venire veramente voglia di venire a scoprire. Per cui iscriviamoci tutti, andiamo tutti su Luccicanza adesso. Troverete su www.coxospaziale.blogspot.com da domani il link per la pagina Instagram, e poi da lì potrete richiedere di entrare nel gruppo segreto di Telegram per poi avere appunto accesso alle serate di Luccicanza. Mi piacerebbe appunto che nei prossimi due eventi, anziché 30 persone, se ne presentassero 30.000 tipo. Spann i vår stan, det är mig som de borde ta, med sirener och mår du bra. Flera gånger ville jag got this and what I'm so this so to get it so say me has come on cloud and he lied to me and what I see what I'm the root see the first you blew Slaget hjälte reser sig igen Jag vet hur det ska sluta Fast alla andra undrar I en sekund kan vem som helst vara själv Jag vet nästan ingenting Men jag vet att man somnar själv Med de orden man aldrig säger Det enda som är riktigt sant Är din hand i min hand Driv i land efter år till havs Den vita flaggan fladdrar i min hand Slagen hjälte reser sig igen Jag vet hur det ska sluta Fast alla andra undrar I en sekund kan vem som helst vara själv Caro Stefano, per il mood di questa 321esima puntata di Coxo Spaziale ho scelto la parola collettivo di Silvia Tagliazucchi. Un aggettivo e un sostantivo, una parola che insieme unisce un concetto descrittivo e un concetto di sostanza. Già nel pronunciare questa parola si includono questi due aspetti, col, let, ti, vo. Una C che avvia un'apertura della bocca fino a creare un cerchio, per proseguire con una O e poi con una L che lo chiude. Una L seguita da una E e una T che preannunciano un'intenzione, un salto verso l'altrove. Altrove che viene poi determinato dalla T e dalla I che seguono nel determinare un campo ed un riferimento, fino ad estendere la volontà di aprire la bocca nel vo finale ad altro, come nella ricerca di una nuova condivisione, per determinarsi a sua volta in un collettivo altro. Io, Stefano, non ci ho capito moltissimo, secondo me nemmeno tu, però siccome noi nel concetto di collettivo in fondo ci crediamo, vogliamo fidarci di Silvia Tagliazucchi e ve l'abbiamo letta. I due minuti di Lolli hanno una durata percepita variabile. Alcuni scissionisti del premio Tenco presero in affitto un capannone a Zola Predosa, idearono il premio Conte. Alcuni scissionisti del premio Conte occuparono un negozio di cartucce compatibili e stamparono il manifesto del premio Tenconte. Alcuni scissionisti del premio Tenconte si arrampicarono sul lampione a LED e rivendicarono la paternità del premio Contenco. Alcuni scissionisti del premio Contenco aprirono una pompa GPL, fecero causa al premio Tenconte per manifesto anagramma e per favoreggiamento di manifesti e al premio Contenco per accuse d'arrivismo e dubbi di qualunquismo. La Kuwait fece causa al premio Contenco per turbativa de basta, al premio Tenconte per aggiotaggio e agli scissionisti Contenco per furoreggiamento di carburanti. A Alle successive elezioni amministrative si presentarono la lista Con te, la lista civica C'è Not, la lista musicale Note C, la lista delle disco Tecno, la squadra di calcio a 100 col CT Eno e la lista dei medici allergologi Etcno. Verso mezzanotte, al termine dello spoglio delle schede, tutti si accorsero con uno sguardo che il comune di San Giovanni in Persiceto era stato accorpato al comune di Montelupone, provincia di Macerata, grazie alla scoperta da parte delle forze dell'ordine di un tunnel da sempre utilizzato per l'immigrazione illegale. Il tunnel Ante 67 venne censito in categoria C2 e venduto all'ultimo pensionato che lo trasformò in bed and breakfast. Già finito? Paesaggi spaventosi. Anche stavolta la puntata è finita. Coxo Spaziale, 321esimo episodio, vi saluta e ci vediamo di nuovo sempre, ci sentiamo di nuovo sempre al lunedì, sempre dalle 19 alle 20 e sempre su Radio Città Fujiko. Ma Chiara, avevi qualcosa da aggiungere prima di salutarci? Secondo me sì, dopo questa puntata così corale si potrebbe solo aggiungere un altro dei detti preferiti di mio nonno, che è un bel tacer non fu mai detto. E a questo punto, come sigla finale, forse andrebbero i 4 minuti di John Cage, però magari tu farai altre scelte musicali. 4 minuti e 33 secondi, non mi dimenticavo i 33 secondi. Hai fatto bene a non dimenticare i 33 secondi. Sì, sarebbe un leggero problema mandare in radio i 4 minuti e 33 secondi di silenzio di John Cage, perché la gente cambierebbe canale. Per quanto possiamo adorare tutti John Cage, penso che faremmo così anche noi, non lo so. E dunque niente, tu eri Chiara Pergola, io ero Stefano W. Pasquini, questo era Coxo Spaziale, ci sentiamo lunedì prossimo, ciao. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. It's time for me to be a man. non l'ascolterò mai.